Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata di Arcadia. Grazie a Radio Big World. Oggi volevo parlare di distanze, orizzonte, curvatura. Abbiamo ripetuto tante volte che questa curvatura non esiste, non c'è, non si riesce a trovare a che altezza. Quindi oggi vi ho portato un po' di numeri, un po' di magari di idee. Quindi vediamo un po' di approfondire questa cosa dell'orizzonte che è sempre piatto, come ci viene insegnato nelle scuole, come è scritto su libri di testo, che una persona di 1,70 m di altezza può vedere a una distanza di 4,5 km più o meno. A 2 metri di altezza questa distanza a cui può vedere una persona passa a 5 km. Se invece andiamo su una collina o su una torre, facciamo a 100 metri di altezza, questa distanza dell'orizzonte passa a 35 km, quindi riusciamo a vedere a 35 km se fossimo a 100 metri di altezza. Queste sono le cose che ci hanno insegnato, queste sono le cose con cui siamo cresciuti, le convinzioni con cui siamo cresciuti, ma secondo me sono ridicole e sbagliate. Perché? Perché possiamo fare delle esperienze personali, possiamo notare delle cose da soli per conto nostro, semplicemente andando a verificare se queste cose sono vere. Quindi come possiamo, allora vi pongo un'esperienza che ho fatto durante il mio risveglio, ormai lo chiamo così. Andando su, che potete fare anche voi, andando su una spiaggia qualsiasi, vi sdraiate sulla spiaggia vicino all'acqua, in modo che nemmeno in piedi, proprio sdraiati, va bene? Quindi la vostra distanza visiva dovrebbe ridursi ancora di più, perché non sei più a 1,70 m, sei praticamente a livello del mare, a pochi centimetri dal mare. E cosa puoi notare? Puoi notare che puoi comunque vedere un'isola o una barca anche a più di 60 km, che sono a più di 60 km di distanza. Questa che è magia, o la supervista. Sdraiato a livello del mare riesco a vedere a 60 km, quindi uno dice sì, potresti anche poter vedere, considerato le condizioni atmosferiche, la luce, i riflessi, una cosa o un'altra, ma dovrei comunque, una cosa a 60 km dovrebbe essere tipo, la dovrei vedere più o meno, anzi non la dovrei proprio vedere, dovrebbe essere una cosa a 64 km se io sono sdraiato in spiaggia, dovrebbe essere 200 metri sotto l'orizzonte. Quindi come fo a riuscire a vedere un'isola per intero o una barca se dovrebbe essere 200 metri sotto l'orizzonte, se non di più? Quindi non torna. Allora, non c'è nessuna curvatura, non si può vedere da terra, quindi cosa ci hanno detto per imbottire ancora di più la menzogna? Che bisogna andare più in alto. Ma più in alto quanto da terra per poter notare questa curvatura? Quindi proviamo ad andare su un aereo. Un aereo viaggia a un'altezza intorno ai 10.000 metri, ma come possiamo notare, penso in molti di noi hanno preso un aereo, non c'è nessuna curvatura, l'orizzonte è sempre a livello visivo dell'osservatore, perché se fossimo davvero su una sfera, l'orizzonte lo dovremmo vedere, dovremmo abbassare lo sguardo per poter vedere l'orizzonte, perché se fossimo su una palla, l'orizzonte non rimane a altezza dell'osservatore. Quindi nemmeno neanche a 10.000 metri riusciamo a poter osservare una curvatura, un rigonfiamento della Terra. Quindi com'è possibile? Dov'è questa curvatura? Perché siamo convinti che c'è questa curvatura? Se da un aereo l'orizzonte è piatto, però mi viene insegnato che le barche vanno dietro questa curvatura, allora è sbagliato. Quindi proviamo ad andare ancora più in alto, perché ci sono, come ho già detto, ci sono delle persone che di tasca propria si sono avventurati in questa ricerca, in questa curvatura, di questa curvatura. Hanno mandato dei palloni sonda o stratosferici che arrivano anche a un'altezza di 49.000 metri. Insomma, è un'altezza, insomma, sono un po' più alti rispetto agli aerei, perché gli aerei sono a 10.000 metri e questi palloni arrivano anche a 49.000 con delle telecamere montate sopra. Ovviamente, se andate a cercare, ci sono un sacco con le lenti a occhio di pesce, però se andiamo a cercare quelli con le lenti normali, non che distorcono l'orizzonte, perché le lenti a occhio di pesce ti fanno sembrare la terra curva anche da terra, anche altezza del terreno, quindi no, cosa provano? Niente, è solo per lo spettacolo delle immagini di lassù. Quindi se a 49.000 metri non c'è nessuna curvatura, l'orizzonte rimane sempre altezza dell'osservatore, è piatto, non c'è nessun rigonfiamento e si riesce a vedere per centinaia di chilometri quello che c'è sotto, che può essere un oceano, possa essere una distesa di nuvole, e si vede perfettamente che è piatto, che non c'è nessun rigonfiamento, non c'è nessuna curvatura. Quindi quando a una persona gli fai vedere questi video, queste foto, queste prove, magari qualche foto che hai fatto anche da te, che prova che non c'è nessuna curvatura, e riesci a vedere anche oltre 60 km da sdraiato dalla spiaggia, e sarebbe impossibile, cosa ti dicano queste persone? Gravità. Ma la gravità non mi spiega perché a 49.000 metri non c'è nessuna curvatura. La gravità non mi spiega perché a 49.000 metri vedo una distesa d'acqua piatta, no? È inutile che continui a ripetermi, continuiamo a ripeterci, la gravità che tiene l'acqua attaccata alla palla, ma la devo poter vedere la curvatura in qualche modo. Se non possiamo dimostrare la curvatura, non è tonda. Ma mi dispiace, so che fa male, ma non è tonda, non è una sfera. Possiamo fare anche un'altra osservazione grazie ai palloni mandati dalle persone, che le immagini che vediamo spesso date dalla NASA sono molto molto simili alle immagini dei palloni amatoriali mandati, che arrivano a un'altezza di all'incirca 49.000 metri. Sono molto simili, se andiamo a metterli a confronto, sono molto simili. Quindi sono davvero nello spazio, questi astronauti, ci siamo davvero arrivati nello spazio. Perché se andiamo a confrontare le immagini date per live, perché le persone continuano a dirmi, a farmi vedere le immagini della NASA date per live, ma qui è giorno, vado a vedere il live della NASA e notte, mi prendi in giro? Cioè, davvero? Cerchiamo di aprire la testa, cerchiamo di renderci conto davvero di cosa stiamo parlando. Non continuiamo a ripetere quello che ci è stato detto all'infinito, quello che ci è stato fatto vedere all'infinito. Soprattutto se andiamo a guardare le immagini della NASA, anche praticamente quasi tutte le immagini della NASA, possiamo notare le bollicine, queste famose bollicine. Nello spazio, partiamo dal fatto che nello spazio è impossibile ci siano le bollicine d'aria. Oltretutto, le bollicine d'aria che vanno verso l'alto è ancora più impossibile, perché vanno verso l'alto. Quindi ci fanno vedere apertamente che gli astronauti si allenano in delle piscine con i sommozzatori insieme, no? E ti dicono che è per simulare le camminate spaziali, per allenarli nello spazio. Però anche lì, caso, vedo le bollicine nelle immagini date per spaziali riprese dallo spazio, vedo una quantità di bolle spropositata, non ce ne dovrebbe essere nemmeno una, e invece la vedo le bollicine, ce ne sono. È ridicolo pensare che ci sono delle persone che si fidano di queste cose, che le prendono per reali. Ultimamente è stato fatto, c'è qualcuno di questi che cercano della terra piatta, ha fatto notare che in un video della NASA si vede riflesso nello schermo, nella visiera dell'astronauta, si vede un sommozzatore. Anche questa, come me la spieghi? Mi puoi ripetere gravità all'infinito, ma non mi spieghi, non mi dai una motivazione a queste cose, come me le spieghi? No, questi sono fatti che la gente continua a ignorare, continua a ripetersi che vive in un globo, nonostante non ci sia nessuna prova, non è possibile dimostrare né il movimento della Terra in nessun modo, non è possibile, lo diceva anche Einstein, non è possibile dimostrare la curvatura della Terra, non è possibile andare nello spazio, perché gli unici che vanno nello spazio sono gli astronauti e la NASA. Quello che ci fanno vedere ce lo fa vedere solo loro. Dice: ma ci sono tante agenzie spaziali, sono tutte una bufala gigantesca, enorme, e lo possiamo dimostrare dalle foto che ci danno, dai video che ci danno. Ci sono delle foto venute da Marte, riprese da Marte, dove si vede un roditore. Si vede un roditore in una foto che dovrebbe essere di Marte. Anche qui, come me la spieghi? Gravità? Un caso? No, è la gravità che ha portato un roditore su Marte. Forse ci sono i roditori su Marte. Quindi la cosa diventa sempre più buffa e ridicola vista dal punto di vista del terrapiattista, di chi vede le menzogne. Perché è divertente, è una barzelletta continua vedere tutte queste missioni spaziali dove ti rendi conto che è tutto fatto al computer. Addirittura ultimamente ho visto anche un video della NASA dove si nota durante le operazioni di questo astronauta, si nota una persona che gli tiene il tubo, quello per respirare. C'è poco da dire, no? Uno deve vedere con i propri occhi, deve saper cercare, deve saper riconoscere, riuscire a riconoscere le bugie, cosa è vero e cosa no. Quindi cerchiamo di liberarci da questo controllo mentale e aprite la vostra testa, c'è del vero all'interno. Dall'Arcadia è tutto, grazie a Radio Big World, alla prossima.